cambiare. E se è giusto oppure no, io so che ve la dirò. Sento musica ovunque, a sentirla c'è chiunque. Poi film e trasmissioni che ipnotizzano milioni. Io dire addio, una cosa giusta se si rimane ai limiti di quello che magari dà. Ma mi pare che oramai non ci sono limiti. Ma io non ci sto. Volevo essere non banale. Volevo essere non banale. Volevo essere un po' speciale. Volevo essere l'influenza che hai subito ascoltando musica, soprattutto quella là. E poi molte trasmissioni parlano sempre di milioni. Sei molto fortunato se trovi un film che è pulito. Non sarebbe meglio se ascoltando musica o guardando la TV potessi imparare tu qualcosa di utile, non qualcosa futile. Io non so se riuscirò, ma quel che so che proverò, sì, io proverò. Che so, proverò, se giusto o no, giudica tu, io quel che so che lo dirò, se anche tu pensi così, allora in due saremo qui, e se anche voi sarete qui, la società migliorerà. Volevo essere.